Adesso ci sarà un intervento della compagna della coordinamenta, Elisabetta, e ci sembrava doveroso, insomma, sentire il contributo delle compagne femministe rispetto alla lotta di genere e alla lotta di classe di Rosa Luxemburgo. Quindi parola a Elisabetta. Grazie. Allora, ciao a tutte e ciao a tutti, grazie di essere qua e soprattutto grazie alle compagne e compagni che hanno organizzato questo incontro, perché parlare di Rosa Luxemburg oggi è molto importante, perché deve e necessariamente può esserci di aiuto per l'attualità, perché se la storia e la memoria hanno un senso è solo perché devono essere strumento di lotta nel presente. Allora, per parlare di Rosa, prima di tutto scenderei, anche se artificialmente, due piani che sono però necessariamente connessi, che sono quello della sua vita e quello del suo pensiero. Io non so se Rosa può essere definita femminista, sicuramente per i parametri di adesso no, però la sua vita in effetti ha avuto un'impronta femminista. A 27 anni si è sposata, ha fatto un matrimonio di comodo soltanto per avere la cittadinanza tedesca, dopodiché ha avuto una relazione alla luce del sole con Leo Gices, scusate la pronuncia, spero che si dica così, e che per le convenzioni, i costumi e gli usi dell'epoca era una cosa piuttosto difficile da fare. Comunque lei si è bellamente e giustamente disinteressata da qualsiasi giudizio sociale che poteva venire sulla sua vita privata, o comunque l'ha resa direttamente pubblica. È stata una assertrice del forte, con determinazione, del voto alle donne, per esempio, però ha sempre dato un giudizio fortemente negativo sul femminismo dell'epoca, tant'è vero che ha tacciato di le femministe dell'epoca, le definiva parassite borghesi, perché volevano gli stessi privilegi degli uomini della loro classe sociale. Quindi aveva molto chiaro quella che era la frattura che attraversa l'insieme delle donne, cioè che è una frattura di classe, cioè l'oppressione è di genere, tutte le donne sono oppresse, però sono attraversate dalla frattura di classe. È finita in prigione per il suo fervente antimilitarismo in un periodo in cui i tradimenti anche molto pesanti hanno caratterizzato il periodo storico, quindi invece lei è sempre stata molto coerente con quello che pensava ed ha passato diversi anni in carcere. Dopodiché è stata assassinata dalla socialdemocrazia. Già questi momenti del suo percorso di vita portano a diverse riflessioni. Le prime le abbiamo grosso modo già accennate. Quella riguardante la socialdemocrazia è un punto molto importante che all'attualità ha dei risvolti molto importanti per le nostre lotte. Cioè, la socialdemocrazia noi ce l'abbiamo ancora ed è nelle vesti di quella che possiamo definire la socialdemocrazia riformista, che è il PD nelle sue varie accezioni, quelle che sono e quelle che saranno e come si trasformerà, e i suoi annessi, connessi e collaterali che supportano questo tipo di percorso. La socialdemocrazia riformista è la responsabile di della situazione in cui noi siamo adesso, perché attraverso un lessico di sinistra, segnali, segni, caratteristiche facevano parte del bagaglio culturale della sinistra, ha fatto passare e ha naturalizzato il neoliberismo nel nostro paese. Questo compito che si è assunta praticamente l'ha potuto fare mettendosi in gioco come sinistra democratica, buonista, quello che diceva il compagno in apertura, che si pone la maschera di una sinistra diciamo più all'acqua di rose, più sì, appunto democratica, non moderata, no? Invece non è altro che strumento di, ha un ruolo preciso nella divisione capitalistica del lavoro, quello di far sparire e di fare fisicamente fuori tutto quello che è alla sua sinistra, e che, ed è un ruolo, un compito preciso all'interno di questo, di questa appunto divisione capitalistica dei ruoli. E questo perché è importante? Perché non soltanto adesso noi ci troviamo con uno stato sociale devastato, con, in tutti gli ambiti, dal lavoro alla scuola, alla sanità, e qualsiasi tipo di conquista, chiamiamola tra virgolette, degli anni 70 è stata azzerata, ma ha operato una trasformazione profonda del comune sentire, cioè ha prodotto una fascistizzazione del paese pesante, che poi chiaramente si riverbera in tutta una serie di scelte che vengono operate. Allora, questo che cosa ci deve far capire, o comunque ci deve essere di monito, di supporto, su che cosa ci deve far riflettere? Sul fatto che all'attualità noi non dobbiamo in nessun modo e in nessuna maniera considerare la socialdemocrazia riformista una sinistra annacquata, bensì è il nemico di classe. E a questo punto noi di conseguenza dobbiamo tener conto in tutti i rapporti politici che instauriamo, perché purtroppo non, magari voi penserete che è chiaro, ma non è così chiaro, e non è affatto questo il rapporto che la sinistra di classe ha con il riformismo, almeno si legge continuamente dappertutto. Allora, questa è una considerazione che riguarda appunto il suo percorso di vita. Per quanto riguarda il suo pensiero, invece, ci sono delle caratteristiche che, come aveva accennato Giorgio, sono molto importanti nell'analisi della nostra società, sono state addirittura preleggenti. Perché? Perché Rosa Luxemburg parla del capitalismo, dice che il capitalismo nel suo percorso di autoespansione ha la necessità di azzerare tutte le economie che sono diverse, tutte le economie altre, le economie marginali e le economie di sussistenza. Le economie marginali, diciamo, chiamiamolo su quello che noi diciamo, lo chiamiamo sempre fronte interno, cioè all'interno dei paesi capitalistici. Le economie di sussistenza sono quelle che il capitalismo incontra quando aggredisce i mercati o comunque i paesi del terzo mondo. E questo si è praticamente verificato puntualmente, è lo scenario che abbiamo sotto gli occhi noi continuamente adesso. Tant'è vero che all'interno dei paesi a capitalismo avanzato assistiamo a una guerra senza quartiere, anche alle manifestazioni più spicciole di economia marginale. Non so, dicono delle sciocchezze, le prime che mi vengono in mente, il bagaglinaggio, i parcheggiatori abusivi. La stessa prostituzione, la prostituzione che è un ambito che ci riguarda da vicino, noi come questione di genere, è praticamente, deve essere normata, deve essere normalizzata, deve rientrare in parametri di accettazione pubblica, eccetera. Intendiamo, questo faccio un inciso brevissimo sul fatto che per me non voglio che questo sia preso come un giudizio negativo sulla Costituzione. La Costituzione per noi come gruppo di coordinamento e per me personalmente è un lavoro come un altro. Non si capisce perché vendere il proprio corpo sia più grave che vendere la propria mente, per una donna che vende la propria mente e le proprie braccia, vale a dire una prostituta vende il proprio corpo, una poliziotta vende la propria mente e le proprie braccia per opprimere e reprimere tutte le altre donne. Quindi non c'è assolutamente un giudizio negativo sulla prostituzione, bensì sulla poliziotta, tanto per capirci. Allora, detto questo, però, il capitalismo, il neoliberismo adesso fa questa operazione, cioè non soltanto vuole, come diceva Rosa Luxemburg, inglobare e mangiarsi le economie marginali all'interno dei nostri paesi, bensì vuole addirittura entrare in ogni anfratto possibile del sociale, ridurre tutto a merce. Praticamente il plus valore deve essere estorto in qualsiasi più recondito anfratto dell'esistente. Questo perché è importante? Perché nel momento attuale anche le ideologie che possono essere di, diciamo, chiamiamole antagoniste tra virgolette, sono sussunte, inglobate e ridotte a merce. Io parlo proprio del femminismo. Il femminismo in questo momento, che dovrebbe essere un momento di antagonismo e di uscita da questa società, invece è stato inglobato, è stato sussunto, è stato ridotto a merce, e le donne dovrebbero essere consumatrici della loro stessa oppressione. È una cosa pazzesca. A questo punto siamo arrivati. E quindi e questo è un portato di quel tipo di impostazione capitalistica che già Rosa Luxemburg aveva tirato fuori. Questo tipo di intuizione l'avevano colta già delle femministe, le Rote Zora, negli anni, che sono un gruppo di guerriglia urbana femminista, un gruppo tedesco, degli anni dal 70, che hanno operato dal 70 al 90, e di cui è stato fatto un libro molto bello in autoproduzione da alcune compagne che si chiamano Editrici Femministe Appassionate, che si trova, si può comprare, però è un'autoproduzione, quindi nelle librerie di movimento, chiamiamole così, in cui loro fanno esplicito riferimento a Rosa Luxemburg e al rapporto tra che il capitale ha con le donne in quanto possibili da cui potrebbe riuscire a estorcere plus valore come soggetti marginali, quindi non nell'accezione normale di già estorce il lavoro riproduttivo e il lavoro di cura che sono a titolo gratuito, ma questo è riconosciuto ormai da diverse pensatrici tipo Silvia Federici, comunque è dominio pubblico del femminismo. Mentre questa capacità di estorcere plus valore anche dall'oppressione degli stessi soggetti repressi, loro l'hanno direttamente colta dagli scritti di Rosa Luxemburg, e questo libro sarebbe per esempio da leggere perché è molto ben fatto e comunque un documento unico, perché le compagne si sono prese la briga di tradurre dal tedesco tutti i documenti originali, che non l'ha fatto nessuno, insomma. Allora, detto questo, sul fronte esterno invece il mangiarsi l'economia di sussistenza da parte del capitalismo provoca quello che abbiamo sotto gli occhi, cioè le aggressioni neocoloniali e comunque le cosiddette guerre umanitarie. Noi adesso non esportiamo più la democrazia, noi esportiamo i diritti umani, noi esportiamo la tutela delle diversità, noi esportiamo l'attenzione verso degli stati particolarmente oppressi, cioè l'Occidente si presenta come buono e l'impero del bene che esporta buonismo a man bassa. Attraverso questo però vengono completamente distrutte le economie di sussistenza, la piccola proprietà contadina, sì, l'agricoltura minuta, che poi sono quelle che hanno portato prima tutte le popolazioni del terzo mondo a inurbarsi in grandissime megalopoli, dopodiché e vivere praticamente di niente, di stenti, di miseria. Mi viene sempre un'immagine quando vedo queste enormi baraccopoli del terzo mondo, praticamente l'immagine che siano rifiuti urbani e rifiuti umani insieme, no? Cioè questa idea del rifiuto, chi non serve si ammucchia lì. È chiaro che poi chi non serve si ammucchia lì tenta di emigrare, di venire da noi, di provare delle strade, no? Per cui c'è questa distruzione della possibilità di vita nei paesi del terzo mondo, e questo lei l'aveva intuito perfettamente e aveva aperto la riflessione su questi scenari. Dopodiché, chiaramente, da questo ne discende immediatamente che la guerra è uno strumento principe del capitale, che è insita nel suo modo di produzione, e che il militarismo e comunque l'apparato militare industriale è un momento economico importante. Tanto per dirla anche come Angela Davis, tra l'altro, che no, parla di questo a proposito della, prima di tutto, della società americana, quindi è una riflessione quanto mai attuale. Il problema del militarismo poi è un problema che su cui Rosa Luxemburg è stata, diciamo, strumentalizzata tantissimo, perché è stata fatta passare per pacifista, cosa che invece non è assolutamente vero, cioè è stata ridotta a un pacifismo, diciamo, d'accatto, per cui è stato dimenticato assolutamente il suo portato rivoluzionario, cosa vuol dire essere rivoluzionaria, e quindi è stato dimenticato questo ancora qualche tempo fa, perché, cioè poco tempo fa, perché essendoci adesso il centenario della morte, anche le femministe socialdemocratiche si sono espresse in questo senso, hanno fatto gli articoli su Rosa Luxemburg dicendo che era una pacifista, che era una donna ed era antimilitarista perché era sensibile, come se la sensibilità fosse una caratteristica innata delle donne. Qui facciamo ritornare l'innatismo che avevamo buttato fuori dalla porta, dalla finestra, la caratteristica delle donne, e non invece una semmai caratteristica dei rivoluzionari e delle rivoluzionarie, che non ha, che è ben altra cosa. E quindi è stata ed è ancora strumentalizzata molto in questo senso, mentre l'antimilitarismo di Rosa Luxemburg, appunto, è un antimilitarismo che coinvolge il giudizio sulla società nel suo complesso. Tanto più per noi femministe, perché l'antimilitarismo è una concezione, cioè il militarismo è una concezione del mondo, cioè il militarismo è quella concezione basata sulla prevaricazione, sull'aggressione, per la risoluzione dei rapporti e dei conflitti, sia sul piano personale sia sul piano pubblico, quindi questo ci coinvolge direttamente. Ed è praticamente in pratica una concezione gerarchica, autoritaria, piramidale, meritocratica, e non solo, ma noi la definiamo proprio per questo, per tutte queste caratteristiche, cultura dello stupro, perché praticamente comporta tutta una serie di atteggiamenti e di modalità predatorie nei riguardi di chi viene considerato più debole. E quindi divisione fra oppressi, dominanti e dominati, vincitori e vinti, oppressi, cioè giustificazione, non solo giustificazione, ma cioè è una visione di questo tipo, della divisione del mondo in vincitori e vinti e dominanti e dominati. È un modello. Detto questo, tutto questo, anche tutto questo va riportato all'attualità, perché il neoliberismo che cosa ci sta spingendo a fare? Ci sta spingendo a fare in modo che il confronto deve essere un confronto civile, deve essere un confronto democratico, tutte le opinioni devono essere tenute in considerazione, il sereno confronto fra i sessi, il sereno confronto fra le parti. la convivenza civile, ma tutto questo serve a far dimenticare la differenza tra aggressore e aggredito, presso oppressore, subalterno e padrone, ed è proprio in questa ottica che deve essere, secondo noi, riletto il contributo di Rosa Luxemburg, nella comprensione di tutta questa serie di cose. Va bene, sarò breve. Allora chiudo con una frase di... No, siccome riteniamo che proprio per questo, in questo momento storico, si debba fare un'operazione di verità, cioè dire le cose come stanno. E allora chiudiamo con una frase che a noi coordinamente, perché qui ci sono anche le compagne della coordinamenta, ci sta molto a cuore, una frase di Rosa Luxemburg che dice sempre: il mondo si comincia a cambiare chiamando le cose con il loro nome.